Un'icona, assicura un manifesto pubblicitario che ho avuto occasione di vedere in una delle mie rare uscite di questi giorni, vale più di 2000 parole. E non si tratta, per quanto possa sembrarlo, della pubblicità di uno di quei monasteri bizantini in cui il culto delle icone sacre si sposa col più rigoroso voto del silenzio per i cenobiti che ivi fuggono al mondo. E qui si allude a icone assai più moderne, anche se altrettanto venerate. Sotto lo slogan, di fatto, compare la riproduzione in formato gigante di un telefono cellulare di ultima generazione, di quelli dotati di schermo, o come credo che più correttamente si dica di display. E sul display, invece delle parole costitutive di quei messaggini che i fortunati proprietari di quegli artefatti sono soliti scambiarsi, figura appunto un'icona, l'immagine stilizzata di un cuoricino, di quelli che per convenzione consolidata alludono più alla tenerezza dei sentimenti che alle condizioni cardiache del titolare. E se ne deduce naturalmente che procurandosi quello specifico modello di telefonino sarà possibile inviare ai propri corrispondenti, invece di uno scontato messaggio verbale, una ben più moderna e pregnante comunicazione di tipo iconico, che vale appunto ben più di 2000 parole. Sarà. Personalmente non riesco a farmi venire in mente quali altre immagini si potrebbero utilizzare in questo tipo di comunicazione. Un cuoricino assicura al destinatario o alla destinataria che il mittente, la mittente è ancora ebro o ebra d'amore, ma poche stilizzazioni grafiche godono di altrettanta univocità semantica. Si potrebbe forse impiegare il profilo di una pentola fumante per segnalare che è arrivato il momento di buttare la pasta, o il glifo dell'euro per ricordare ai debitori distratti che è ora di onorare i propri impegni, anche se il risultato non mi sembra così sicuro. Ma deve essere colpa mia che non mi intendo di queste cose. Di fatto, di immagini dal significato convenzionalmente accettato a livello di gruppo ne esistono centinaia, basta dare un'occhiata allo schermo di qualsiasi computer, ed è probabile che grazie a esse si possa comunicare da un display all'altro qualsiasi cosa. Ma perché? Perché un'icona, come assicura lo slogan, vale davvero più di 2000 parole? E chi lo dice? Chi ha deciso che l'immagine di un cuoricino garantisce dell'affetto di chi l'ha mandata molto più che una pur succinta dichiarazione verbale? Quest'ultima certo bisogna inventarsela e non limitarsi a sceglierla da un catalogo, da un menu, come suppongo avvenga nel caso in questione, ma questo è appunto il bello della comunicazione a parole. La parola, come diceva un antico che se ne intendeva, è un piccolo dio che pur avendo esi del corpo dispone di forza tremenda che può rendere grande il piccolo e piccolo il grande e resta comunque, diciamo noi, lo strumento primario di cui gli uomini si sono serviti per costruire nei secoli la loro comunità. Di chi, per comunicarmi qualsiasi cosa, non sa trovare le parole adatte, sia pure le più banali, ma preferisce servirsi di una serie di simboli preconfezionati, di messaggi standard definiti da altri, sono autorizzato a pensare che si tratti di un individuo affatto privo di intelligenza comunicativa, di una specie di subumano con cui per nessun motivo desidererei avere a che fare. Prendetela pure per la dichiarazione interessata di chi finora ha vissuto essenzialmente spacciando parole, ma io resto convinto che una parola ben detta valga più di 2000 icone. Già. Ma c'è un particolare di cui bisogna comunque tenere conto. Chi ti manda un'icona possiede quel tipo di telefonino lì, che è, suppongo, un ultimo modello dotato di facoltà, poteri e capacità di cui la concorrenza per ora non dispone neanche per sogno, il che pone indiscutibilmente i suoi possessori su un piano più alto di coloro che sul display del proprio cellulare possono far comparire soltanto dei vieti antiquati simboli alfabetici. Un'icona vale più di 2000 parole perché il telefonino capace di inviartela vale e costa più di un telefonino che no. Che nel mondo in cui viviamo il valore dell'individuo non vada più cercato nella capacità di fare o di dire, ma si misuri senza residui sul prezzo degli oggetti che possiede, naturalmente lo sapevamo già. Ma da un po' di tempo non ce lo lasciano proprio dimenticare.